Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda chiaramente l'Eurogruppo e le tensioni, questa volta non si possono usare eufemismi, che sono nate anche quasi a livello di offesa, o meglio di giudizio pesante, mettiamola così, tra i partner dell'Eurogruppo e quindi dell'area euro e la Grecia, nel caso specifico, come i nostri GR24 hanno già raccontato, del ministro alle finanze greco, il ormai celebre, mediaticamente celebre Varoufakis, ha detto: siamo tutti molto critici con Varoufakis, viene accusato sostanzialmente di avere un approccio un po' leggero e soprattutto di non mettere mai in pratica quello che viene promesso. Tant'è che il presidente di Selblum ha detto a chi gli chiedeva, presidente dell'Eurogruppo, è vero che i ministri sono stati molto duri con Varoufakis, ha detto: è stata una discussione molto critica, abbiamo fatto un accordo 2 mesi fa, ora credevamo di poter prendere una decisione, ma invece siamo molto lontani, quindi sì, è stato un dibattito molto critico. E racconteremo più avanti anche di altre dichiarazioni che sono arrivate proprio contro Varoufakis da alcuni dei ministri presenti. Quindi tutto si può dire tranne che oggi si sia rasserenato il clima nell'incontro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Parleremo anche di quanto già anticipato ieri dal collega del Sole 24 Ore Claudio Gatti, e mi riferisco al rischio derivati. Perché? Perché c'è un articolo oggi molto importante su Sole 24 Ore di Claudio Gatti, appunto, dove si scopre, tra virgolette, che il contratto sottoscritto con Morgan Stanley dal Ministero del Tesoro e chiuso nel 2012 è costato 3 miliardi e 100 milioni di euro e non 2 miliardi e mezzo. In questo momento, se si calcolano i valori di mercato, il saldo complessivo degli derivati è negativo per 42 miliardi. Ora, è chiaro che sono perdite potenziali, perché è il valore in questo momento, devi poi vedere cosa succede quando vai a chiudere la posizione, però sarebbero 42 miliardi di perdita su un valore complessivo di contratti per 160 miliardi di euro. Praticamente, come viene spiegato molto bene nell'articolo, perché le perdite vengano assorbite completamente, servirebbe un istantaneo rialzo dei tassi di 5 punti percentuali. Ne parleremo. La responsabile per il debito pubblico del Tesoro, Maria Cannata, aveva spiegato lo scorso febbraio in un'audizione alla Camera che comunque le clausole di estinzione anticipata sono spalmate su un arco temporale molto lungo, dal 2015 al 2038, ma ripeto, e poi c'è oggi pure l'agenzia Bloomberg che cita dei calcoli per cui tra 2011 e 2014 le perdite e le passività di questi contratti derivati sottoscritti dal Ministero del Tesoro italiano hanno già provocato un aumento del debito pubblico di quasi 17 miliardi, che vuol dire una specie di quasi una manovra finanziaria. Tra l'altro, da questo punto di vista, la cosa abbastanza singolare è che il dato è superiore a tutto il resto dell'Unione monetaria, che invece beneficia di saldi positivi di Francia, Grecia, Belgio, Finlandia e Portogallo. Tutti i governi, va detto, utilizzano infatti i contratti derivati per nascono così i contratti derivati come strumenti di protezione per assicurarsi contro gli aumenti dei tassi di interesse. Però quelli italiani sembrano essere i più penalizzanti. Solo l'anno scorso l'Italia avrebbe perso, a causa di questi contratti, di questi strumenti, 5 miliardi e mezzo a fronte di risparmi per 2 miliardi e 7 con saldo negativo. Ne parleremo più avanti, il tema è un po' tecnico, ma alla fine quello che interessa capire è quanto pagherà e quanto costeranno tutti i contratti derivati al nostro paese, visto che hanno già pesato, stando ai calcoli appunto della Bloomberg per 17 miliardi. Vedo molti messaggi. Sì, Varoufakis è vero, l'hanno definito un dilettante. Addirittura perdi tempo, questo citano alcune fonti che riportano quanto detto nella riunione a porte chiuse, per cui ci sono stati anche toni molto molto pesanti, poi li racconteremo. Rapidamente l'altra notizia in breve, ricordando che oltre al tema derivati, al tema Grecia, c'è oggi la nostra classifica, poco invidiabile, dei primi 5 sprechi della settimana o malfunzionamenti della settimana, e poi invece come sempre anche quello che abbiamo chiamato l'Italia che si rimbocca le maniche, l'Italia che accetta la sfida, e quindi gli imprenditori che nel pieno della crisi hanno messo in piedi un'attività e hanno accolto rischi spesso non aiutati dal sistema bancario. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, le altre notizie in breve. Per quello che riguarda invece le notizie che riguardano l'Inghilterra, il colosso britannico HSBC starebbe valutando se spostare la sua sede, è una delle principali banche d'affari al mondo, e dicevo se spostare la sua sede fuori dalla Gran Bretagna, e ha sottolineato i rischi economici di un'uscita del paese dall'Unione Europea. È una posizione molto importante perché la banca teme il clima di incertezza che deriva dal referendum dentro o fuori, quello promosso e promesso, oltre che promosso dai conservatori di David Cameron, in caso di vittoria alle elezioni di maggio. Parlavamo di Grecia, oggi c'è un'altra notizia che riguarda non le trattative e l'incontro, diciamo, dell'Eurogruppo, ma riguarda proprio Atene. Decine di migliaia di famiglie greche, infatti, con problemi finanziari, avranno e godranno di una boccata d'ossigeno. Perché? Perché la banca del Pireo, sulla scia di iniziative già prese dal governo Tsipras contro quella che ha definito la crisi umanitaria in Grecia, intende cancellare i debiti degli indigenti fino a 20.000 euro da crediti al consumo o dalle carte di credito e congelare i mutui svalutando gli interessi. Quindi voi mi chiedono se è vero che anche Mario Draghi si sia non allineato ma abbia condiviso le critiche molto forti a Varoufakis. Sì, questo risulta dalle fonti presenti, e soprattutto Mario Draghi, presidente della BCE, ha detto che la liquidità di emergenza, quella che lui sta fornendo garantendo alle banche greche, si chiama in gergo ELA, sarà data fino a che le banche greche saranno solvibili e ci sarà collaterale adeguato, cioè le garanzie, quello che potremmo, per usare un'espressione che per farsi capire, l'ipoteca che viene data a garanzia dei prestiti. Ma vista l'attuale fragilità della situazione, la Banca Centrale Europea potrebbe dover tornare indietro e rivedere l'intera operazione. E poi Draghi ha aggiunto: il tempo sta finendo, la rapidità è essenziale. Insomma, l'invito che è arrivato da tutti i partner europei è a smetterla, per quello che riguarda Varoufakis e anche Tsipras, con il gioco delle tre carte. In qualche modo noi abbiamo sempre criticato l'approccio tedesco del 2010 in poi nella vicenda greca, ma abbiamo anche criticato e invitato i greci a non fare i furbi. I conti li avevano truccati loro, e adesso, per quanto sbagliato fosse l'approccio tutto di tagli, tasse, e quindi che ha aumentato il calo del PIL greco, l'austerity, non è però neanche tollerabile che la Grecia giochi un giorno dicendo sì e un altro dicendo no, nel senso che in questo momento il paese a cui più conviene stare nell'euro, come hanno ribadito più volte sia la Banca Centrale Ellenica che anche il governo di Tsipras, è proprio la Grecia che ha i maggiori interessi in questo momento nel restare dentro l'Europa e nel non fallire e nel non venire espulsa, la famosa Grexit. Tra l'altro il ministro delle finanze greco Varoufakis oggi ha detto che la differenza, non c'è un'alternativa all'accordo con l'Unione Europea, le distanze restano molto forti sulle pensioni, e quindi taglia le pensioni che il governo greco non ritiene utili per stabilizzare il paese, la moratoria sulla confisca delle prime case, che per il governo greco creerebbe nuovi poveri, e l'avanzo primario. Queste le differenze su cui non ci accordo, non sono differenze da poco. Anche il ministro delle finanze austriaco Jon Schelling ha detto: è mesi che discutiamo, ogni volta viene fuori una lista, poi non succede più nulla nei giorni successivi, e poco prima di ogni meeting chiedono i greci di accelerare. Il tempo va usato e dovrebbe usarlo specialmente la Grecia. Ecco, su questo e sulla difficoltà di queste trattative si concentrano oggi 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche da Radio Dimensione Suono. L'autore oggi è il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Continua il tormentone greco, la situazione è drammatica, il tempo sta finendo, hanno detto all'unisono i negoziatori dell'Eurogruppo e lo stesso presidente della BCE Mario Draghi, che sollecitano un serio piano di riforme da parte di Atene. Dall'altra parte il ministro dell'economia greco, che orgogliosamente si definisce un comunista ortodosso e che un po' si sente un pesce fuor d'acqua in quegli ambienti, ha spiegato agli alleati che non ha intenzione di toccare pensioni e salari in nome di un'austerità che ha già fallito in passato e rischierebbe oggi di mettere in ginocchio l'intera Grecia. L'Eurogruppo invece chiede uno sforzo nel limitare gli oneri proprio del sistema pensionistico, chiede una spinta decisa alle privatizzazioni e un aumento dell'IVA per fare cassa. Dalla riunione preparatoria, sempre dell'Eurogruppo, è trapelato molto malumore. Non pochi dei ministri europei hanno definito l'omologo greco Varoufakis come un dilettante dogmatico che fa perdere molto tempo ai negoziati. Intanto la BCE ha ampliato a 75 miliardi il plafond di finanziamenti per la sopravvivenza delle banche greche, anche se però ha aumentato il costo del loro finanziamento sempre presso l'Eurotower, svalutando del 50% in automatico il valore dei titoli che le banche portano presso la BCE per ottenere in cambio moneta. Nel frattempo Atene ha sequestrato la cassa di comuni e aziende pubbliche, ma anche questo sembra non bastare. Lo stesso premier Tsipras ha annunciato che mancano all'appello almeno 400 milioni e Atene deve rimborsare entro 10 giorni 1 miliardo di euro al fondo monetario. È in gioco quindi la sopravvivenza dell'Eurozona così come la conosciamo oggi, e dalla BCE non a caso hanno già predisposto esercizi teorici per un possibile default pilotato della Grecia. Ma è teoria e sarebbe bene che non diventasse mai pratica, perché gli esercizi non prevedono mai bene le emozioni irrazionali dei mercati. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Oggi partiamo dalla Sicilia per arrivare direttamente a Bruxelles, perché anche sul fronte di quello che ci costano gli eurodeputati e i commissari europei qualcosina ce l'abbiamo da dire. Nessuno è escluso da questa classifica, come sa anche la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti e altri soggetti burocrazia dello Stato. Partiamo dal quinto posto, che oggi va alla Sicilia nel doppio fronte del governo regionale del presidente Crocetta e dell'Assemblea regionale siciliana, il Parlamento siciliano, perché è una regione a statuto autonomo e si chiama proprio Assemblea regionale, ma si chiamano deputati i suoi componenti. Allora, mentre il governo ha congelato 450 milioni di euro per comuni precari e forestali finché non saranno firmati gli accordi con lo Stato per l'IRPEF, 300 milioni, e con la Cassa Depositi e Prestiti sulla moratoria dei mutui 150 milioni, la maggioranza, che pochi giorni fa ha approvato il documento contabile in Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, ha dato l'ok a un emendamento che aumenta di 100.000 euro il budget del presidente Crocetta per pagare i suoi consulenti. Ora, il problema non sono solo i 100.000 euro, ma non si era detto che con i consulenti si andava un giro di vite, che veniva ridotta questa brutta abitudine in una regione che ha 24.000 dipendenti di ridurre il numero delle consulenze, perché o licenziate qualcuno o vuol dire che le competenze non ci sono, o se no vuol dire che dietro i consulenti si nasconde dell'altro. E niente, 100.000 euro in più. Nel frattempo, lotta dura e senza paura da parte dell'Assemblea regionale siciliana, che si sta opponendo in maniera bipartisan, perché non è vero che il paese non è unito, quando c'è da tutelare alcuni privilegi si è molto bipartisan, cioè da destra a sinistra, a una norma che permetterebbe, pensate un po', di risparmiare 48 milioni di euro all'anno in Sicilia. 48 milioni. Come? Cancellando 1.482 poltrone di assessori e consiglieri comunali in più rispetto al resto d'Italia. Non è che stiamo eliminando i consiglieri comunali, gli assessori in Sicilia, li stiamo portando al livello del resto del paese. Sono 1.482 poltrone. Allora, dopo 4 anni di ritardo, la norma che equipara la legge regionale a quella statale per quanto riguarda il numero dei presenti, il numero di assessori e consiglieri comunali e anche dei loro gettoni, quindi quanto prendono per partecipare ai consigli, e vale per sindaci, assessori e consiglieri comunali, è bloccata in regione. La legge era già stata inserita nella finanziaria, poi stralciata perché non attinente a materia di bilancio. Ma come si fa a dire che una legge che fa risparmiare 48 milioni di euro e taglia 1.482 poltrone non è attinente alla materia di bilancio? Cos'è attinente alla materia di bilancio? Forse siamo noi che non capiamo. A quel punto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il mitico Giovanni Ardizzone, con cui abbiamo avuto qualche confronto abbastanza pesante in diretta, si era impegnato a presentare un disegno di legge a parte allegato alla finanziaria. La prossima settimana la commissione tornerà a riunirsi, ma il fronte a difesa della differenza tra il numero di sindaci, assessori e consiglieri, dei loro gettoni in Sicilia rispetto al resto d'Italia, è un fronte, ripeto, unito, che non ha paura e ha promesso lotta dura senza paura. Al quarto posto, eravamo molto indecisi a mettere al quarto o al terzo, insomma, riguarda la Puglia su due casi diversi. Da un lato abbiamo Bari, dove ci sono dei veri e propri maratoneti della presenza in commissione, e mi riferisco chiaramente al comune di Bari, perché da questo punto di vista abbiamo, voi sapete come funziona, ce ne siamo occupati molte volte, in questo paese i gettoni che prendono i consiglieri comunali per partecipare alla loro attività di consiglieri cambia, e delle commissioni cambia a seconda di ogni città, e si va da 90 a 30 euro. Allora, la spesa questo mese nel mese di marzo è arrivata al Consiglio Comunale di Bari al livello record di 77.000 euro, 2.000 euro in più rispetto alle medie erogate nei mesi precedenti. Insomma, marzo è un mese da Stakanov, perché il 74% dei consiglieri, 26 su 35, ha raggiunto i 2.395 euro lordi, che è il massimo e pari a un quarto dell'indennità del sindaco che spetta a ciascun eletto del Consiglio Comunale di Bari in base alle presenze in commissione. Allora, al primo posto, io massimo rispetto, quindi nella classifica di chi è più Stakanov. Stakanov 1, Pasquale Finocchio di Forza Italia, 74 presenze. Secondo posto, sempre di Forza Italia, Michele Piccaro, 63 presenze, o Picaro. La maglia di bronzo va a Massimo Maiorano del PD, con 52 partecipazioni tra commissioni e consigli comunali. Tre ne hanno fatti a marzo, e praticamente le commissioni a valanga, perché il problema è capire perché ci siano così tante commissioni, se servono tutte queste commissioni o se servono per arrivare al tetto dei 2.395 euro. Dicevo, negli ultimi 4 mesi del 2014 le commissioni a valanga nel comune di Bari sono costate ai baresi 300.000 euro in gettoni. Già nel primo trimestre si è arrivati a 222.000 euro, quindi ci siamo vicini. Quindi si lavora tantissimo, poche balle. È interessante perché nel frattempo, sempre in Puglia, qui non c'entra il comune di Bari, ci mancherebbe, però la regione, immagino fosse la regione o il comune di Lecce, non è riuscita a trovare i soldi per una vicenda che sarebbe da tra Totò e Kafka se non fosse tutto vero. Allora, un pomeriggio del febbraio del 2001, il signor Luciano Faggiano sta ristrutturando un immobile nel centro di Lecce, vuole aprire un ristorante, sta scavando, si blocca il bagno, spacca il pavimento del bagno e questa picconata cambia la sua vita, perché scavando un metro e mezzo scopre che praticamente c'è un granaio, una chiesa, granaio medievale, una chiesa francescana, una tomba messapica, affreschi, attrezzi antichi, oggetti sconosciuti ben conservati, un museo praticamente sotto il suo ristorante. Lui fa ristoratore, non fa l'archeologo, e quindi chiede aiuto allo Stato. Lo Stato non ha una lira, non ha un euro, non ha soldi per contribuire. Dice, il problema era che restavo fermo a quel punto. Ha provato a coinvolgere anche la facoltà di Lecce di archeologia, ma niente, immagino che avessero cose ben più importanti da fare, la facoltà di archeologia di Lecce. Massimo rispetto, però vorrei sapere come mai uno becca un tesoro sotto il ristorante e non gliene frega nulla a nessuno. Allora chiede ai suoi figli di dargli una mano, compreso più piccolo, tutti e tre, che ha 10 anni, magrissimo, perfetto per infilarsi nei cunicoli più stretti. Ma ragazzi, ma stiamo... Cioè, questo è il modo in cui in qualunque altro paese una cosa del genere diventava il museo di Lecce. No, niente, frega nulla a nessuno. Cosa succede invece? Lo Stato si occupa del soggetto perché gli manda 300 verbali di contestazione con l'accusa di scavi archeologici. Lui dice, ma io volevo solo cercare il tubo della fogna all'inizio, che colpa ha avuto lui se sotto il suo ristorante, il centro storico di Lecce, c'era un museo benissimo e perfettamente conservato? Allora, il risultato di questa vicenda è che lo Stato manda 300 verbali di contestazione, che nella facoltà di archeologia di Lecce, nel comune di Lecce, nella regione Puglia, nello Stato danno un benemerito euro per questa cosa. Lui non può aprire il ristorante lì, si arrende, apre un bar a quel punto poco lontano e crea, perché è una persona che noi adoriamo, il signor Luciano Faggiano, crea un piccolo museo privato, mette la moglie, prezzo del biglietto 3 euro, stampa una piccola brochure, la stampa lui, i due figli li lascia al bar e la cosa diventa così popolare in Italia, ovviamente non se l'è curata nessuno, ma c'è stato addirittura un articolo sulla prima pagina del New York Times che racconta questa vicenda. È un museo che sta diventando conosciutissimo tra gli australiani e tra gli statunitensi, tant'è, ripeto, che il New York Times ci dedica un richiamo nella prima pagina. Ha chiesto un contributo alla regione, agli enti locali, non abbiamo soldi. E a questo punto dice, vabbè, dopo 300 verbali che devo fare? Mi dispiace solo che ci siano voluti gli stranieri per comprendere questo tesoro. Bella, eh? Cioè, quando c'è da dare i gettoni, adesso non ho il dato su Lecce, sui consiglieri comunali, lì tutti pronti, quando c'è da tirare fuori qualche migliaio di euro per uno che becca, ma ci rendiamo conto, eh? Al secondo posto andiamo sul Parlamento nazionale, perché il 26 marzo scorso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati ha rinviato per l'ennesima volta la decisione sul dossier preparato dal Collegio dei Questori per tagliare le spese di viaggio degli ex parlamentari. Voi non ci potete credere, ma gli ex parlamentari, oltre a tutto il resto, godono anche, oltre ai vitalizi, anche di alcuni benefici di viaggi in treno e in aereo. Il massimale annuo è di 2.700 euro per un ex deputato, 2.200 euro per un ex senatore. Non ci sono limiti di tempo alla Camera, al Senato, a patto che non siano passati più di 10 anni da quando hai fatto l'ultimo mandato parlamentare. Complessivamente i due rami del Parlamento spendono 2.500.000 di euro per i viaggi degli ex deputati e senatori. Ora, so benissimo che 2.500.000 di euro non sono una gran cifra, oddio, ma perché? Perché dobbiamo pagare a distanza di anni 2.600 euro per un deputato, 2.200 per un ex senatore? Perché? Hai fatto deputato, hai fatto senatore, avevi lo sconto per i viaggi, basta, sei tornato a fare il tuo lavoro, cioè, non ha senso. È un po' come il discorso del vitalizio, perché devo dare la pensione a uno che ha svolto 1, 2, 3 mandati come consigliere regionale, consigliere oppure come deputato. Comunque si sta cercando di ridurre questa spesa, questo privilegio, non è una spesa, questo è un privilegio bello e buono. La proposta avanzata non era di quelle traumatiche, un plafond unico di 960 euro, quindi li portavano da 2007 a 960 euro. In più veniva data la possibilità di usufruire del rimborso dei viaggi aerei ferroviari solo per un periodo di 10 anni dalla fine del mandato parlamentare, consentito solo il rimborso dei viaggi aerei ferroviari effettuati sul territorio nazionale per i collegamenti con Roma. Il primo a chiedere il rinvio è stato a ottobre 2014 il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio del 5 Stelle, devo dire, per capire meglio la proposta. Poi quelli a cui sembrava così complicata si sono moltiplicati, fatto sta che il 26 marzo appunto ha rinviato la decisione. Intanto continuiamo a pagare gli ex deputati, non importa quando, e gli ex senatori fino a un massimo di 10 anni dall'ultimo mandato. Bello questo paese, eh? Allora, meteo, pubblicità e poi il numero uno, chi ha vinto la classifica di questa settimana. Vi dico già che stiamo organizzando, potete partecipare sul sito di Radio 20, sul sito di Radio 24, dentro il programma Focus Economia, la votazione per la top 5 della top 5. A giugno, luglio daremo i primi 5 di tutti i primi 5. Ripeto, io ne ho uno in testa che è bellissimo, ma non lo posso dire. Meteo e pubblicità. Focus Economia. Al numero uno, dopo aver raccontato quanto accaduto, siamo di nuovo in diretta chiaramente con Focus Economia, quanto accaduto in Sicilia, in Puglia e a questo punto anche i rimborsi dei nostri parlamentari. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 e sulla pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Diamo il vincitore della settimana. And the winner is... la Commissione Europea, o meglio i commissari europei. Perché? Adesso io capisco che gli italiani hanno la fama di essere furbetti, per carità, però si stanno tutti molto adeguando. E allora i furbettini vanno, o possono essere chiamati furbetti, noi non abbiamo nessun dubbio che tutto sia legittimo, però sapete cosa stanno facendo molti commissari europei? Mettono in agenda una missione nella loro città di origine proprio nel fine settimana, così accorciano la settimana a Bruxelles e allungano il weekend a casa. E dite, vabbè, fin qua no, perché in questo modo acquisisce anche il diritto al rimborso delle spese di viaggio, e quindi aerei, pranzi e tutto il resto, che sarebbero invece a carico del commissario se rientrasse per motivi personali. Allora, il commissario slovacco per l'energia, Maros Šefčovič, ieri ha programmato di recarsi nella sua Bratislava, quindi giovedì, per un incontro politico e per dialogare con esperti e cittadini. Boh, non poteva farlo sabato per i fatti suoi? No. Il commissario spagnolo per il clima, Miguel Arias Cajete, penso che si pronunci così, è atteso a Madrid per pronunciare un discorso in un club. Quale club? Boh. Club, ci sono tanti club nella vita, club calcistici, club notturni, club diciamo di scambi vari, insomma. Il commissario portoghese per la ricerca, Carlos Moedas, parteciperà sempre ieri, quindi ha partecipato a una conferenza a Lisbona, tutto il giovedì deve partire, il giovedì e venerdì. Il commissario ungherese per la cultura, Tibor Navracsis, ha un appuntamento a Budapest con il direttore di un museo, immagino una cosa epocale, capito? Il commissario greco per l'immigrazione, Dimitris Avramopoulos, si è offerto di accompagnare, che gentile, nella sua Atene il collega finlandese Katainen a una presentazione non meglio specificata. Però lo è gentile, lo accompagna, che magari Katainen si perde ad Atene. Il commissario austriaco per l'allargamento, dell'allargamento diciamo della nota spese, Johannes Hahn, ha allargato, perché sennò che cavolo faceva il commissario all'allargamento se non sapeva allargare, ha allargato l'orario di lavoro a sabato e domenica, perché ha un simposio e un dibattito a Vienna. Tutte queste cose, i weekend nella città in cui tu risiedi. Il commissario francese per gli affari economici, Pierre Moscovici, Moscovici lo adoriamo, però non pensiamo, però si è insediato a novembre, dunque praticamente è a Parigi 23. È stato a Parigi, si è insediato a novembre. Da novembre adesso era a Parigi per motivi di incontri, il lunedì e il venerdì, 23 volte su 40. Sempre per lavoro, però, cioè, ci siamo capiti, non c'è nulla di sbagliato che uno vada a Parigi per il weekend, si paga il volo e il resto. No, se ci vai, sempre per lavoro. Chiudiamo con Juncker. Juncker, dopo 18 anni a fare il premier del Lussemburgo, conosce bene tante materie di carattere fiscale, insomma, lui va a inizio a fine settimana per i pranzi di lavoro sempre in Lussemburgo, sempre così è spesato. Allora, Questo lo dico perché, non per populismo, ma perché noi come europei già paghiamo i commissari europei uno stipendio di 20.830 euro netti o lordi. Non esiste differenza perché sono non tassati, sono esenti dal fisco nazionale, sono soggetti a prelievi interni compensati da suntuosi benefit e ricche indennità non tassate al 100%. Poi c'è chi come la Mogherini, vicepresidente, va a 24.000 euro al mese, Juncker a 25.000 euro. Praticamente in 5 anni il commissario matura una pensione di almeno 5.000 euro al mese, che può salire fino al 70% del salario, e almeno 5.000 euro netti al mese. Al termine del mandato, e questa è bellissima, viene pagato per altri 3 anni, perché poi, cioè, ci dici, ma dov'è che avranno preso spunto i vari consigli regionali e comunali di questo paese? Beh, il commissario viene pagato per altri 3 anni 8.000-15.000 euro al mese. Voi direte perché? Ho la motivazione fantastica: per consentire all'ex commissario una vera indipendenza da governi, partiti, imprese e lobby. Applausi. Conto, vero? Cioè tu dai per 3 anni a un ex commissario 8-15.000 euro al mese, perché se no temi che se non avesse questi soldi non sarebbe realmente indipendente da governi, partiti, imprese, lobby. Cioè gli dai del venduto, gli dai di persona che se non ha questi soldi si dà al primo, cos'è, una peripatetica, cos'è un commissario, un ex commissario europeo? Cioè ha bisogno dei soldi perché se no si vende alla prima lobby? Ma ci rendiamo conto che è anche offensivo e insultante? Se fosse un commissario direi: no, guardi, non ho bisogno dei suoi soldi per non vendermi. E poi chi stabilisce che uno non si venda per 8-15 mila? Magari uno non si vende per 30. Decidiamo qual è il prezzo di un ex commissario perché non si venda alle lobby, alle imprese, ai partiti, ai governi. Ma manco si rendono conto. Traffico. Focus Economia. Allora, l'Italia che si rimbocca le maniche, accetta la sfida. Mi scrive un ascoltatore: lei fa finta di non capire che il vitalizio serve in modo che non solo i ricchi possano fare politica. Allora, intanto mi dica che lavoro fa, perché il sospetto mi viene. Ma guarda che il vitalizio si dà dopo l'attività politica. Dopodiché, se vogliamo introdurre il concetto di dare un vitalizio, non ho ben capito perché, a chi ha un reddito bassissimo. Ok, dichiarazione dei redditi, verifica fiscale di tutti gli ex consiglieri regionali. E poi, se veramente uno è in condizioni di non abbienza, non ho capito perché, perché quando uno va a fare attività politica prende l'aspettativa, però insomma ragioniamo. Però a questo punto lo diamo come vitalizio, e perché solo a loro? E perché tutti la metà degli assegni pensionistici che sono sotto i 1.000 euro non devono avere un vitalizio? Non ho capito perché. Enrica Arena, cofondatrice e responsabile di marketing di Orange Fiber o Fiber, come l'avete chiamata? Fiber o Fiber? Buonasera. Fiber, buonasera. E chiamatela in italiano, Fibra Arancione. Allora, cosa fate con Fibra Arancione, Orange Fiber? Allora, noi tiriamo fuori dal sottoprodotto degli agrumi, quindi quello che resta dopo la spremitura. Sì. Un filato, che poi può essere tessuto. Ma dai. E che fa bene alla pelle quando viene indossato. Dunque, quando è nata questa attività, questa società? Noi portiamo sempre startup nei periodi di crisi. Voi siete partiti nel 2011, se ben ricordo. Allora, l'idea è nata tra il 2011-12 a livello proprio embrionale universitario. Abbiamo iniziato a partecipare a delle competition per startup tra il 2012 e il 2013. Competizioni e per società nuove, sì. Sì, e ci siamo costituite come SRL innovativa nel febbraio 2014. Oh, visto che spesso noi purtroppo dobbiamo raccontare la Sicilia che non ci piace, voi avete sede a Catania e poi avete una sede operativa a Rovereto. Sì. Esatto, uniamo le due parti d'Italia e usiamo come perno Milano. Brave. Allora, chi vi ha dato una mano nel sviluppare la fattibilità del progetto e chi vi ha dato una mano nel darvi delle linee di credito, soldi? Allora, per la prima fase di fattibilità del progetto abbiamo trovato un grandissimo supporto nel Politecnico di Milano, nella professoressa Vismara in particolare, e in generale anche per nell'istituto che frequentava Adriana, la Folmoda della provincia di Milano. Quindi la Folmoda della provincia di Milano e il Politecnico di Milano vi hanno aiutato a sviluppare che cosa? Il brevetto? Sì, praticamente dimostrare che l'idea di poter fare un tessuto dagli agrumi fosse realizzabile e quindi sviluppare quel know-how per poter depositare la domanda di brevetto italiano. Ma bella storia, ogni tanto becchiamo di belle storie. Senta, e i soldi chi ve li ha dati? I soldi ce l'hanno dati due investitori privati, siciliani e il Trentino. Privati, banche, quindi, niente? Banche, in questa fase abbiamo avuto accesso al fondo di garanzia. Oh, bene. Grazie a una banca, però come capitali propri della banca, no. Ah. Non ancora. E quindi ve li ha dati, due imprenditori privati. E Trentino Sapete? Sviluppo, cosa Trentino Sviluppo sì. si chiama se non ricordo male? Sì, quello esatto, che sì. L'ente di sviluppo del Trentino con un bando che si chiamava Seed Money proprio per l'attrazione e lo sviluppo di idee con potenziali di scalabilità. E quanto avete raccolto all'inizio per partire? Allora, in totale circa 200.000 euro, considerando che il bando del Trentino è un bando a rimborso, quindi noi abbiamo raccolto i capitali privati. Sì. Con i quali abbiamo iniziato i rimborsi del Trentino, ovviamente perdendo ogni giro, quindi ora abbiamo un super credito IVA. Ovviamente, mi scusi, l'abbiamo persa per un secondo? Dico, ovviamente noi in questo giro diciamo paghiamo l'IVA, quindi ora abbiamo circa più di 20.000 euro di IVA a credito che ci sarebbero molto utili. E questo sì, immagino che i tempi di arrivo non li avete ancora, immagino. Noi stiamo facendo di tutto per riuscire a essere sul mercato entro la fine dell'anno. Siamo riusciti, grazie anche a un bando del Ministero dello Sviluppo Economico, a riadattare una linea di produzione di un'azienda di spremitura in Sicilia per fare il nostro processo. Quindi non portiamo lo scarto in giro, non creiamo un impianto per ora. Proviamo. Anche perché se è un impianto abbandonato che voi sostanzialmente riadattate, meglio ancora. E cos'è? Smart and Start, quell'incentivo del Ministero dello Sviluppo Economico? No, questo qui è proprio relativo al riuso dei sottoprodotti della spremitura degli agrumi. Senta, quindi voi volete in questo modo arrivare a produrre, se non ricordo male, la filiera degli agrumi a circa 700.000 tonnellate di sottoprodotto. Com'è che si chiama in gergo ciò che resta della spremitura? Pastazzo, che è una parola difficilissima per me perché ho la Z moscia. Sì, però almeno una parola italiana perché mi ha usato 20 inglesismi all'inizio. Pastazzo d'agrumi, va brava. Allora, sì. Senta, e quindi farete un tessuto che, se ho ben capito, rilascia delle vitamine. No, ma io sono affascinato, mi dica. Il tessuto è già stato creato, abbiamo presentato il prototipo, ora stiamo cercando di farlo in quantità, come dire, industriali o quantomeno tali da soddisfare le domande medie di un brand che vuole metterlo in produzione anche per una piccola collezione. Oh, e allora, poi abbiamo... prego. Sì. Chi assumerete o chi state assumendo? Ancora quanti minuti? Due, uno. Chi assumerete, chi state assumendo? Zero. Ed è vero che avete vinto un premio? Abbiamo vinto da pochissimo il premio Ideas for Change delle Nazioni Unite, United Nations Economic Commission at Europe. E quindi siamo state selezionate fra 150 start-up al mondo, abbiamo vinto il primo premio della giuria, che come bello. Idea da Catania, con maggiore impatto ambientale. Imprenditori, è retorica, sì, è retorica, come quello di prima era populismo, andiamo avanti così, giovani, imprenditori. Con idee innovative, con il Politecnico che vi aiuta, il Trentino che vi dà dei soldi, ve li danno anche i privati, un po' vi aiuta anche il Ministero e vincete il premio delle Nazioni Unite Ideas for Change su 150 partecipanti. Chi assumerete o chi state assumendo? A 20 secondi, dottoressa. Noi assumeremo un responsabile ricerca e sviluppo e se riusciamo un dottorando di ricerca e poi abbiamo bisogno di ingegneri tessili. Oh, bene, in bocca al lupo veramente a lei e a tutti quelli che hanno ideato assieme a Adriana Santonocito, appunto Enrica Arena, questa idea. In bocca al lupo veramente, GR24, mi sono risollevato, poi parliamo di Grecia e derivati. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani oppure mai. Pezzi di Vita Tour, dal 18 aprile, nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Focus Economia. E 9 minuti, inizia la seconda parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa e poi Grecia, e quello che riusciamo a fare oggi della vicenda derivati del tesoro è molto complicata, casomai la approfondiremo ulteriormente lunedì prossimo. Allora, la borsa più 1% Milano nel finale, più 0,44 Parigi, più 0,70 Francoforte, più 0,20 Londra, più 0,15 in questo momento il Dow Jones. E poi Finmeccanica più 6,5%, Banco Popolare più 3,70, Iux più 3, Enel più 2,80, Unicredit più 2,60, Snam più 2,30, Pop Milano più 2 come Azimut, Ubibanca più 1,90 come Terna, Prismian A2A più 1,8, Prismian e A2A più 1,8%, Mediolanum più 1,6, l'1,5 lo guadagna Enel Green Power. Perde invece Saipem, meno 2,20, Autogrill meno 2,2 anch'essa, ST Microelectronics meno 1,80, Unipolsai meno 0,80 come generali, mezzo punto percentuale di calo per Mediaset, lo 0,30 invece quello che perdono sia Eni che Telecom Italia che Tenaris. Allora, bene Finmeccanica, che ieri era calata, aveva perso in maniera significativa, e poi andremo anche su alcuni titoli più sottili. Vi segnalo che il migliore Poligrafici Printing più 19,90, EMS più 18, Beyond più 10, poi appunto Finmeccanica. Il peggiore in assoluto è Novatec meno 8,5, Sunshine Capital Investment meno 7,90, Munich Re meno 4,60 e poi poco altro. Cattolica Assicurazioni meno 3,20%. L'euro su dollaro a 1,0874, quindi leggermente in recupero ma poco mosso. Non ci sono state grosse ripercussioni della Grecia, delle tensioni in Grecia, anche perché erano già scontate. Milano è comunque la migliore tra le piazze europee. Allora, Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Finmeccanica da un lato, e poi Iux, ho visto che si muoveva sulla notizia del nuovo direttore finanziario Enrico Cavatorta, che è l'ex AD di Luxottica, prego. Esattamente, beh, per Finmeccanica c'è stato un buon rimbalzo dopo l'andamento di ieri, un buon rimbalzo che è stato guidato da notizie arrivate dall'India, perché il quotidiano The Economic Times of India ha riportato il fatto che il governo indiano si appresti a riavvicinarsi al gruppo Finmeccanica dopo la vicenda delle tangenti internazionali che avevano portato il gruppo a essere escluso dalle nuove commesse nello stadio. Il governo indiano avrebbe aperto la possibilità che Augusta Westland partecipi a un nuovo programma di investimenti nel paese, e il mercato ha accolto positivamente questa indiscrezione, questa notizia arrivata dall'India, premiando il titolo con più 6,5%. In generale oggi buona giornata per i bancari e per le utility, ma si è distinta nel settore del lusso la società di e-commerce Iux, proprio per il motivo che tu ricordavi. Enrico Cavatorta era stato brevemente ai vertici di Luxottica dopo l'uscita di guerra, poi se n'era andato, oggi è stato indicato come nuovo direttore finanziario, il mercato ha accolto positivamente, ha premiato con un più 3% le Iux. Ancora tra i titoli segnaliamo appunto Finmeccanica, l'ha già detto, e Iux, Unicredit. Ieri l'abbiamo data in diretta la notizia, la borsa era chiusa, dell'accordo con il gruppo bancario spagnolo Santander per l'integrazione di Pioneer con le attività del Santander stesso. Sì, il mercato da qualche giorno stava premiando l'Unicredit per questo motivo. Chissone aveva detto l'accordo è imminente, questo accordo che porta appunto a una partnership, ma sostanzialmente insomma alla cessione del controllo al gruppo Santander dell'attività di asset management Pioneer è stato giudicato positivamente, era atteso, era tra le attività che era tra le operazioni che gli analisti si aspettavano positive per Unicredit e il titolo è salito del 2,6%, chiaramente ora è un'operazione che andava a ridurre il debito, il mercato si aspetta altre operazioni straordinarie. Abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'ipotesi di qualche analista sulla quotazione della controllata tedesca Unicredit. Allora, vabbè, Eni e Saipem seguono anche il prezzo del greggio, Saipem ha anche qualche realizzo perché ha corso molto nelle ultime sedute, Autogrill, vabbè, abbiamo visto che è negativa, c'è un dollaro in leggerissimo, in leggero indebolimento, ST Microelectronics invece. Sì, ST dopo alcune buone sedute ha pagato le indicazioni arrivate da Texas Instruments ieri, già ieri ha avuto una seduta negativa e oggi ha sofferto ancora, ha sofferto anche per questioni legate ai cambi, legato appunto al lieve indebolimento del petrolio, ha perso l'1,8%, un andamento un po' in controtendenza del settore tecnologico europeo, mentre invece il settore tecnologico americano oggi festeggia con grandi rialzi, Microsoft più 8,7%, Amazon più 14%, ricordiamo il Nasdaq ieri, nuovi massimi storici ancora aggiornati oggi. Allora, oggi siete usciti come Radio Corriere Sole 24 Ore con il sondaggio mensile con Assium e quindi quello che pensano gli operatori, quello che si attendono gli operatori di borsa, spazio per un rialzo oppure no? Cioè per ulteriore crescita della borsa? C'è ancora fiducia, sì, c'è ancora fiducia per un rialzo a piazza affari nei prossimi sei mesi. Il 76% degli analisti e degli operatori intervistati prevede un rialzo o anche un forte rialzo nei prossimi sei mesi, e sul fronte dei cambi ci si aspetta una stabilizzazione nel cambio euro-dollaro. Molto significativo il cambiamento rispetto agli ultimi sondaggi. Prima si vedeva un euro in ulteriore indebolimento. Attualmente invece sembra che si vada incontro alla fase di stabilizzazione, anche perché non è ancora chiaro come si muoverà la Federal Reserve sul fronte dei tassi di interesse. Se li alzerà a settembre o aspetterà, visto che il lavoro gliel'ha già fatto Mario Draghi, con il cui ha reso più debole l'euro e quindi forse ci sono meno esigenze in America. Grazie, buon fine settimana Andrea Fontana e a tutti i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Are you with me? Are you with me? I think there is a great sense of urgency for all of us to get a deal. Penso che ci sia un grande senso di urgenza per tutti noi per trovare un accordo. Ma occorre lavorare prima che l'Eurogruppo possa prendere una decisione. Ho parlato con i miei colleghi di Atene e loro sono molto determinati a ottenere un'intesa. Sanno che il tempo sta per scadere. Aprile non è ancora finito e la scadenza, il termine è più importante per la parte greca che per l'Eurogruppo. È un'urgenza della Grecia ottenere l'accordo e il sostegno finanziario perché ci sia abbastanza denaro disponibile e tenere il governo in corsa. Money available to keep the government running. Ça fait trois mois maintenant que les élections ont eu lieu en Grèce. Sono passati tre mesi da quando si sono svolte le elezioni in Grecia e sono passati due mesi da quando abbiamo stretto l'accordo di febbraio. Sono stati fatti dei progressi. Certo, sono ancora limitati e insufficienti, ma siamo avanzati un po'. È vero che non abbiamo fatto i progressi che speravamo e che erano necessari. I fronti opposti si sono avvicinati su alcuni punti, ma su altri sono ancora troppo lontani. Abbiamo bisogno di un accordo globale, ma non ci siamo ancora lontani. Per arrivare ad un accordo globale servono le riforme. Dunque, il nostro messaggio oggi è molto chiaro. Occorre accelerare. Accelerare a partire da questo fine settimana. Bisogna intensificare gli sforzi, perché non c'è altra scelta se vogliamo raggiungere l'obiettivo di una Grecia stabile, prospera e ben inserita nella zona euro. Una Grecia stabile, prospera, ancorata nella zona euro. Oh, avete appena ascoltato da un lato la dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem e dall'altro quella del commissario agli affari economico monetari europei Pierre Moscovici, uno di quelli che citavamo anche nei viaggi dei commissari europei, molto diplomatiche, così tutto altro tenore rispetto a quanto raccontano alcune fonti in cui lo stesso Dijsselbloem oggi nel vertice a cui partecipava chiaramente anche Varoufakis, il ministro delle finanze greco, avrebbe affermato Dijsselbloem che Varoufakis è un dilettante, un perditempo, un avventuriero e che nella gestione delle trattative ha tenuto una linea irresponsabile. Mancava solo un vaffa e c'eravamo. Adriana Ceretelli, del corrispondente e analista del Sole 24 Ore per i temi europei, buonasera. Buonasera. Da Bruxelles, dopo il traffico, la tua analisi e soprattutto al di là delle dichiarazioni diplomatiche, sembra che siano veramente volati gli stracci. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, traffico. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, ultima parte di Focus Economia. Dicevamo, al di là insomma delle dichiarazioni formali, diplomatiche e degli insulti pesanti che sono volati oggi, c'è anche l'intervento di Mario Draghi, come ricordavamo in apertura, da segnalare, perché Draghi ha detto sostanzialmente, è in linea totale con il resto dell'Unione Europea, e ha detto attenzione, potremmo anche rivedere la dotazione che diamo, la liquidità che diamo alle banche greche, e vedremo se ci sarà il collaterale a garanzia adeguato. Il tempo sta finendo, la rapidità è essenziale. Allora, Adriana Ceretelli, la domanda è molto semplice. Tu hai scritto anche un commento, vedi che stavolta non mi freghi, un commento importante sul fatto che se è la fine della Grecia è la fine dell'euro. Però in questo caso le parole forti volate sono un segnale che veramente la pazienza sta finendo e anche i margini di trattativa stanno finendo, oppure siamo ancora in una fase di tattica, per quanto così verace e colorita? Prego. Ma io credo che siamo in una fase di trattativa, ma al tempo stesso in questa trattativa veramente la pazienza sta per finire. Sta per finire perché? Perché in sostanza Varoufakis ha il brutto difetto di fare lezioni universitarie ai suoi colleghi. Ora, essendo lui la parte che ovviamente è quella, il questuante, colui che ha bisogno di un accordo, non è esattamente nella posizione di fare lezioni agli altri. È vero che Varoufakis resta convinto che anche gli altri hanno bisogno dell'accordo, e questo è assolutamente vero, però finché si continua così il negoziato è sempre sull'orlo della rottura. Io personalmente continuo a credere che alla fine si farà l'accordo, però qui l'atmosfera oggi è stata davvero molto molto brutta, ma neanche tesa, direi un'atmosfera esasperata, incattivita, di intolleranza reciproca, insomma tutto il contrario di quello che serve per avere un buon negoziato. Quindi ci confermi che diciamo le indiscrezioni sui pesanti commenti arrivati a Varoufakis erano proprio la punta di un iceberg di una tensione fortissima che vede, se abbiamo ben visto da qui, da una parte sia la Banca Centrale Europea che tutti i paesi dell'area euro, e dall'altra la Grecia molto più isolata a questo punto. Ma la Grecia è sempre stata isolata in questa trattativa, perché naturalmente parla con i creditori e i creditori non vogliono perdere i soldi, e quindi naturalmente impongono le loro condizioni nella speranza di non perderli. Ma il problema è che al di là appunto dell'interesse materiale che fa sì che la Grecia sia sola in quanto l'unico debitore in questo momento al centro della trattativa, c'è proprio una esasperazione personale nei confronti di Varoufakis, nel senso che per esempio nessuno lo dice in modo aperto, ma tutti sperano che prima o poi Tsipras se ne liberi, proprio perché è una persona molto arrogante, il professore che arriva da Boston, no? Che ha insegnato eccetera, che quindi spiega agli altri la lezione. Questa è una cosa che ovviamente molti non accettano, anche perché in sostanza fanno capire: ma come sei qua, no? Col cappello in mano, e in più fai pure lo spiritoso. Dall'altra parte però c'è Varoufakis che sostiene con i suoi: questi non capiscono niente, hanno avuto un approccio totalmente sbagliato non solo alla Grecia ma alla politica economica europea, tant'è vero che hanno mandato l'eurozona in recessione. Quindi ci sono proprio due mondi opposti che provano a parlarsi e non si intendono, ed è lì il rischio di questa trattativa, perché è chiaro che l'esasperazione possa far saltare i nervi agli uni agli altri, insomma. Devo dire che se uno guarda Varoufakis, economista, io sono totalmente d'accordo con lui che l'Europa, l'area euro abbia avuto l'approccio sbagliato per la crisi, però il problema è che Varoufakis non è lì. Per cui siamo, personalmente sono totalmente d'accordo che l'approccio tedesco del nord Europa abbia portato l'area euro in una seconda recessione, unica area a livello mondiale, e che non ne stiamo uscendo perché il PIL non cresce e quindi deficit e debito in rapporto al PIL continuano a aumentare. Detto questo, però, hai ragione a ricordare che Varoufakis non è lì per tenere un corso, diciamo, di economia keynesiana ai vari ministri delle finanze europei, è lì per spiegare se la Grecia farà o no quello che ha promesso di fare. Quindi non può continuare a giocare a fare il professore, anche perché poi va bene fare, il, come dicono a Venezia, il fotomodello, il fotomodeo, cioè quello bello, veloce, le foto in posa, il partenone dietro casa tua, però occhio, perché il tempo sta veramente finendo. E se abbiamo visto i tagli alle pensioni che il governo greco non ritiene, i tagli alle pensioni il governo greco non li vuole perché dice non sono utili, la moratoria, vuole una moratoria sulla confisca delle prime case, e poi anche c'è un dibattito sull'avanzo primario. Ti ho sentito particolarmente preoccupata, Adriana, e colgo appunto anche dal tono delle tue parole tutta la preoccupazione che si registra lì, ripeto, anche perché quando si arriva allo scontro fisico, verbalmente fisico, cioè che si manda a quel paese, nulla poi serve più per rasserenare, le posizioni diventano anche personali. Grazie Adriana Ceretelli, in collegamento con noi da Bruxelles. Claudio Gatti, è la seconda giornata di fila che ti abbiamo ospite, non è un peccato, però in collegamento con noi da Washington, da New York, il corrispondente del Sole 24 Ore, Claudio Gatti. Buonasera Claudio. Buonasera a voi. Oggi è solo un assaggio però, perché non abbiamo più tempo, ma come tu ieri ci avevi anticipato, oggi su Sole 24 Ore trovate l'inchiesta su quanto ci sono costati i derivati e quanto ci potrebbero costare a valore di mercato 42 miliardi di euro per 160 miliardi di euro, mentre oggi Bloomberg calcola che tra 2011 e 2014 le perdite del tesoro italiano provocate dai contratti derivati sono ammontate a 17 miliardi di euro. Una sola domanda, perché ho 30 secondi, poi sarà il nostro ospite lungo lunedì. Ma chi li ha sottoscritti? C'è qualche nome? Chi ha sottoscritto questi contratti particolarmente penalizzanti per l'Italia? Quelli particolari di cui sono riusciti a ottenere i dati sono la Morgan Stanley, sono stati sottoscritti in un periodo che parte nel 99 e arriva fino al 2005. Quindi il problema di questi derivati è soprattutto degli strumenti che hanno meno senso, perché sono i più rischiosi e quelli che causano potenzialmente più danni, cioè le swaption, sono state fatte dalla fine degli anni 90 fino all'anno scorso, cioè continuano a essere vendute. Allora, noi abbiamo massimo rispetto perché è bravissima della responsabile per il debito pubblico del Tesoro, Maria Cannata, che aveva spiegato che le clausole di estinzione anticipata sono spalmate su un arco temporale lungo, dal 2015 al 2038. So che se ne occuperà anche Report domenica, noi torneremo a parlarne lunedì. Intanto ringrazio Claudio Gatti. La materia è un po' tecnica, perché i derivati sono strumenti che tutti usano per coprirsi dal rischio di un aumento dei tassi di interesse. Il problema è che altri paesi hanno saldi positivi. Noi ci abbiamo già smazzato 17 miliardi e a valori di mercato di adesso ne perderemo altri 42. Nessuno va a vendere adesso, però questa è la posizione. Grazie intanto a Claudio Gatti e grazie da Sebastiano Brisoni a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi, come sempre, per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Un augurio di buon fine settimana, soprattutto a partire da chi e per chi lo passerà lavorando. Radio 24. La passione si sente.